my car. When I saw you at the club, you ain't wrong to speak. Saw me. Iniziamo con una bella botta al microfono perché ci piace così. Esatto, ma si sente? Si sente meglio da questa parte? Si sente meglio? Fammi, prova di nuovo. Allora, di qua sto parlando a questo tono di voce. Stai da Dio, veramente. Proviamo perfetto. Qua ci sono già dei rumori che non stanno funzionando. Vedi che di qua non si sente tanto bene. Non si sente tanto bene, è vero. Vedi? Sì. Quindi noi ci piace fare i sound check in onda. Sì. È bellissimo. Ma infatti sì, mi regolo ancora sì. un po' il volume anch'io. Guarda, da qui. Perfetto. Allora, questo microfono va tenuto dalla parte del LED. Esatto. Tenetelo a mente anche voi al piano di sotto. Ricordiamoci questa cosa del microfono, quello grigio, il numero 2, va tenuto dalla parte del LED rosso. Io so perfettamente che qualora ci dovessero essere problemi, verremo avvertiti dalle mille luci rosse lampeggianti che abbiamo messo in radio dell'emergenza, quelle che quando stai guardando le proiezioni ti chiamano e non devono suonare. Arrivano queste luci fortissime che si accendono e tu ti fermi e dici c'è qualcosa che non va. In questo caso tipo quella dei Simpson, tra l'altro. Esatto. Ringraziamo il nostro reparto tecnico della redazione che ci informa ovviamente tutti i problemi tecnici logistici, ma ci piace così. Ci scusiamo per quello che è accaduto la settimana scorsa, che tra l'altro ha coinvolto tutti i programmi della radio, non soltanto noi. Ma perché settimana scorsa era un alfa testing. Invece a sto giro siamo sul beta testing. Dovete tu sapere che Chiara insegni... è una fan di Young Signorino che nella sua canzone alfa alfa beta beta e va avanti così. E quindi abbiamo deciso che questo è un altro test, è l'1.1. Esattamente, forse un giorno, chissà, quando festeggeremo il 500° episodio di The To Do List. Allora ci saranno tipo, quando dovremo vendere i DVD con i contenuti speciali per l'ennesimo, backstage. Esatto, esattamente, e quindi niente, in quel caso lì faremo sentire la brillante registrazione dell'ultima volta. Ci scusiamo, noi siamo andati a braccio pensando che tanto stava registrando bene, invece ha registrato malissimo. Però c'è la seconda parte, quella è pulita per esempio. La seconda parte è pulita, ma quella sarà nei director's cut. Esatto. Ci sono dei bloopers. Esatto, ci sono dei bloopers. Ci sono, e oltre a quello invece ho pensato anche di utilizzare la voce robotica dei lettori dei telefoni, quelli che parlano tipo robot, per fare tutta la prima parte. Bello. Sarebbe interessante. Molto bello. Quindi praticamente per fare questa cosa dovremmo ascoltarci tutta quella puntata. Esattamente. Sbobinarla tutta adeguatamente per farla leggere a uno che lo legge male. Ci sta. Bello. Male con bello. La stessa intonazione. Bello, grazie. Cosa è una bella idea, guarda. Ci divertiamo. Si vede che te sei avanguardia proprio. Sei avanguardia. Vivo per l'avanguardia. E tu Nolan non l'ha mai usata questa cosa. Nolan gliel'ho insegnata io. Ok, ci sta. Ci salutiamo Chris. Ciao Chris, grazie per aver chiamato oggi pomeriggio. Tutto a posto a casa, grazie. Anche Ansia Zimmer. Esatto, sì. Anche Ansia Zimmer. E tra l'altro To Do List è avanguardistico perché vi ricorda che siete voi in teoria a doverci comunicare gli eventi. Quindi affrettatevi, noi non facciamo niente. Mandateci sul canale Telegram, sulla nostra chat che è radiozam_chat, mandateci gli eventi. In questo caso dobbiamo ringraziare Greta perché ha preso veramente in parola. Quella che è l'essenza di To Do List, assolutamente salvifica. Esatto. E ha costretto Chiara a mettersi sul computer e iniziare a scrivere. Sono arrivato oggi che c'era Chiara che bruciava. Mi fumavano le orecchie. Esatto. Però abbiamo impacchettato una bellissima puntata. Ora abbiamo pensato anche alle ricorrenze, perché non possono mancare in To Do List le ricorrenze. Certo, ricordiamo che questa intanto ricordiamo che giorno è. Guarda, sei veramente discolo. Incredibile. Sei veramente siamo discolo. Da 3 minuti e 58 e non ho ancora detto che giorno siamo. Ma veramente. Partirà un podcast, la gente penserà che gli eventi di oggi sono nel 2023. Esatto. Perché siamo 2023. Già perché anche nel 2023 saremmo stati avanguardia. Sì, assolutamente. No? Lo siamo nel passato, nel presente e nel futuro. Oggi è il 23 di novembre. 23 di novembre, che ore sono? Dimmi un po' che io sono non le 18:46 spaccate. 23 spaccate. Di novembre 2020, non si sa mai. Cifra tonda, 46. Ci teniamo a ricordare la data perché ci siamo accorte che durante la riproduzione dei podcast che vanno anche in orari notturni eccetera, molto spesso uno viene tratto in inganno, non capisci se effettivamente si è in live o se stiamo mandando un podcast. In questo caso, in un programma dove si parla di eventi, è sconsigliato creare malinformazioni. In realtà, tanto perché voi lo sappiate, non siamo mai in podcast. Cioè, in realtà c'è sempre una persona che rifà dopo aver sbobinato come avremmo fatto noi. e mima le voci anche. Esattamente, Seth MacFarlane. Allora, ci arrivano dei messaggi alla chat sbagliata, perché è quella privata della redazione che si sente benissimo. Esortiamo grazie, i nostri compagni e le nostre compagne, amici, a usare la chat di Telegram, che è molto più simpatica. Così potremmo dire: oddio, abbiamo ricevuto un messaggio in diretta. E ma tu lo dici come se nessuno scrivesse in quella chat. No, invece, no, no, un sacco no, di gente fa, ecco, tipo ringraziamo Riccardo che la usa per mandarsi gli articoli. Grazie Riccardo. Grazie Riccardo, veramente sei incredibile. Lo sai, non c'è bisogno che te lo diciamo. Bene, abbiamo detto abbastanza stronzate, direi. Vabbè, che dobbiamo mettere questa... Dobbiamo metterla, questa sì. Questa sigla. Dobbiamo metterla, ricordiamo da dove arriva questa sigla, ricordiamolo. Allora, questa sigla arriva dal 2412. Siamo alla fine del 4212 e... C'è ancora Craig David ed è ancora in cima alle classifiche settimane... col suo stesso pantabaggy e le solite punte impomatate veramente iconiche. E Craig David, ancora ci sono 7 giorni nella settimana, quindi 7 Days è la nostra sigla, tutta per voi. E a abbiamo anche detto a un certo punto tagliamola, però sì, abbiamo detto, ci, però... ci piace troppo Greg David, ma solo troppo. Perché esatto, solo perché arriva è quella la remix dal 4000 passa, esatto. Vedi? Esatto, non so se esatto. Cioè, vi ricorderete ovviamente tutti i CD pirata che c'erano in mezzo alla strada e Greg David spuntava così fuori, ma vi ricorderete anche la traccia audio contenuta nel video di questa canzone che esatto. A un certo punto tornava indietro. Aveva sì. Già previsto Tenet, vedi, di vedi. Nolan. Ma infatti era girata da Nolan. Se tu non sai le cose, se tu non sei un vero cinefilo. Comunque, direi che possiamo entrare nel vivo. Dici di iniziare? Allora, diciamo di iniziare. No, vabbè, però aspetta, cerchiamo di rimembrare un secondo a che cosa serve questa puntata, perché abbiamo detto una serie di baggianate, ma assolutamente non il senso di questa cosa. Allora, il senso di questa cosa è... Che è il 23 di novembre. È il 23 di novembre. Siamo ancora in zona rossa. Esatto. Gli spostamenti sono limitati. Ai abbiamo noi. Un sacco di tempo. Possiamo decidere come spenderlo. Esatto. Se vogliamo. Chi non va a lavorare tutti i giorni, tutto il giorno. Esattamente. Non è oberato, oberatissimo. Ovviamente. In quel caso lì, diciamo, uno può scegliere se usarlo per mortificarsi. Per muffire sul divano, che comunque è un'ipotesi che noi sponsorizziamo, io ci sto. Alternativamente, perché voi lo sappiate, esistono anche un sacco di cose divertenti e interessanti da fare sul web, soprattutto considerato che per l'appunto la chiusura, diciamo, degli spostamenti ha fatto sì che un sacco di iniziative che noi verosimilmente non saremmo potuti andare ad ascoltare si svolgano invece sulle piattaforme online, e questo è tutto sommato anche diciamo una cosa da sfruttare a nostro vantaggio. Volevo usare un modo di dire così da anziano signore, ma non mi viene in mente in questo momento. Facciamo di necessità virtù. Di necessità virtù, perfetto. Perfetto. Bello, ci sta. Mi piace così. Molto. Venezia è una città bella, ma non ci vivrei. Esatto, esatto, esatto. Si stava meglio quando si stava peggio. Detto questa serie di cose intelligenti, a questo punto noi partiamo. In realtà la volta scorsa avevamo chiuso con queste cose, ma ci sembra giusto in realtà partire così, e cioè con delle iniziative che in realtà riguardano la giornata di oggi. Voi potete smettere di ascoltare questa trasmissione in questo momento, no, dopo che noi vi abbiamo detto quali sono queste tre iniziative, e andarvele ad ascoltare, oppure tenete sempre conto che insomma internet almeno per un pochino di tempo conserva le tracce di ognuna di queste dirette Facebook, di queste conferenze Skype o Zoom, e quindi potete andarvele a recuperare. In particolare, una delle prime cose che potreste andare a recuperarvi, perché ha avuto sede questa mattina, in realtà come tutti i lunedì alle 11 di mattina, l'associazione Antigone propone un incontro di approfondimento per parlare della situazione delle carceri durante questa seconda ondata della pandemia di Covid-19. Nello specifico, per chi non la conoscesse, l'associazione Antigone è dal 91 che si occupa di carceri, giustizia, diritti umani e di prevenzione della tortura, e nello specifico la puntata di oggi si concentrava sulla situazione nelle carceri lombarde. Settimana scorsa era stato il caso del Piemonte, questa settimana diciamo sì, il focus è quello delle carceri lombarde, quindi anche questo, cioè questo in primis è uno di quelle interventi, eventi che vale la pena di essere ascoltato o rivisto, perché ricordiamo appunto che sicuramente le pagine Facebook salvano nella sezione video, come è successo d'altronde nella nostra pagina Facebook del collettivo ZAM per l'evento di Prospero Editore e il libro di Bravo, di infatti, Sarf, bravissimo Foglie di Gelso. Foglie di Gelso, esatto. Hey, hey. La potete trovare salvata sulla pagina, quindi in un momento in cui non e sapete la troverete cosa fare, a breve anche come podcast, e la troverete tra a breve anche come podcast, quando non sapete cosa fare basta riascoltare tutto To Do List per capire cosa andare a cercare sul web, cosa andare a recuperare. E come dire, la proposta di associazione Antigone è sicuramente una delle prime cose che volevamo proporre. Come seconda è in realtà una riproposta anche questa, perché in realtà si tratta di un ciclo di incontri che sono intitolati intellettuali tra potere e rivoluzione nel vicino Oriente contemporaneo. Ora, questa serie di incontri organizzati dal Centro Studi Movimenti di Parma, che nessuno di noi verosimilmente avrebbe raggiunto, sono in realtà facilmente raggiungibili sulla pagina Facebook del, per l'appunto, Centro Studi Movimenti di Parma, e all'interno di questo corso si conoscono, diciamo, l'intento è quello di conoscere alcuni uomini e donne protagoniste dei principali correnti di pensiero politico e dei movimenti sociali che hanno attraversato il vicino Oriente nell'epoca contemporanea. Nel caso specifico, l'incontro di oggi, che è dalle 18:30, quindi appena iniziato, se volete fate ancora tempo a recuperarlo, è intitolato L'islamismo politico, Hasan al-Banna e i fratelli musulmani. Che spettacolo bello! E anche questo, secondo me, è da darvi un'occhiata. Come ultimo appuntamento, sempre per la giornata di oggi, io ci tenevo a spingere un incontro proposto dalla Brigata Basaglia, che ricordiamo essere la brigata che si occupa di ascolto e di cura all'interno di questo momento difficile come quello pandemico, e nello specifico l'incontro di oggi, che a partire dalle 20:30 lo trovate in diretta sulla pagina Facebook, sempre per l'appunto, della Brigata Basaglia, dello Sportello Ti Ascolto, è concentrato in particolare sulla infanzia e sull'adolescenza. Io leggo perché secondo me è abbastanza, diciamo, chiaro ed esplicativo. Quello che ci scrive la Brigata Basaglia è emerso in maniera ormai chiara come i più giovani, bambini e adolescenti, siano stati tra i grandi dimenticati ed esclusi dai vari decreti. Amputati lo scorso febbraio in maniera improvvisa e nelle ultime settimane in modo lento ma inesorabile dei loro contesti di socializzazione, gioco e apprendimento, sono portatori di diritti specifici. È responsabilità degli adulti farsene carico e garantirne la tutela. Quindi dalle 20:30 anche questo è un incontro a cui vale la pena di assistere. E ci siamo. Abbiamo fatto il primo blocco. Diciamo, primo blocco fatto. Possiamo andare a salutare e onorare un artista che è già riecheggiato nella puntata numero 0, che sentirete poi nella Director's Cut, nei contenuti speciali del DVD, quando vogliamo comprerete rendergli, esatto, il cofanetto da 17 DVD di Radio ZM, in cui saremmo anche noi nel, tra l'altro, 17 DVD, di cui 4 sono in realtà dischi del flessibile. Esatto. Non mettete, e suonano comunque meglio di alcuni di noi. Esatto, non metteteli nel flessibile, ma metteteli proprio nel lettore CD, perché ne sentirete delle belle sicuramente. Esattamente. Le puntate sono venute molto simili, tra l'altro. Sì, esatto, a partire dalla scorsa nostra. E quindi niente, in realtà, perché qual è il punto? Che noi ricordiamo che questa agenda, come ogni almanacco che si rispetti, a differenza nostra che non si rispetti, me e Pica, noi siamo andati a vedere chi compie gli anni, chi nasce, chi ha fatto uscire dei cult durante la settimana che va dal 23 al 29 novembre, e la prima cosa che abbiamo scoperto è che il 27 novembre del 1942 nasceva un signore che ha fatto un po' di storia della musica, che è Jimi Hendrix. È proprio lui, e allora credo che a lui dedicheremo il primo stralcio. Scusa Jimi per la registrazione dell'ultima volta, proprio non volevamo. Thank you. Grazie, grazie Jimmy, grazie mille. Abbiamo capito che io sono cieco e Chiara no. E siamo qui in compagnia di Jimi Hendrix, che come ci spiegherà un giorno Cigo quando avrà voglia, Cigo, in realtà quando avrà voglia, non è morto, ma è in un isolotto a ballare insieme ad Avril Lavigne e Elvis Presley. Esatto. Cigo, quando vuoi, sempre, ovviamente. L'abbiamo chiamato prima, però evidentemente non ci vuole abbastanza bene. Ci vuole abbastanza bene. Allora, io ho sempre molte difficoltà a usare il computer di Chiara, però ce la faccio. Dovrei essere giusto. Dove sei andato? Dove sono andato? Sei 17 pagine sopra, guardatelo. Ok. No, sì. Però è interessante perché io ho dovuto alzare la luminosità al massimo, mentre invece Chiara ce l'aveva tipo, come si chiamano, i Kindle. Ma perché io sono, esatto, io sono eco-friendly. Salutiamo Jimi Hendrix, lo ringraziamo, ci scusiamo un attimo oggi. Ricordiamo, il 23 di novembre, siete su Radio ZM, sono le 19.07. Dissolviamo Jimmy. Ed eccoci qua. Compleanno, cioè, compleanno. Compleanno tanti il 27, il 27 festeggia qua se volete. Esatto. È il suo invito. Allora, bypassiamo direttamente martedì, perché a quanto pare non ci è pervenuto, cioè, non ci è arrivato nulla. Niente, controlliamo la chat, muta per adesso, e piombiamo drasticamente al 25 novembre con una bella piroetta, perché ci dipingiamo completamente di fucsia. È stata indetta questa zona fucsia, ringraziamo Conte, Luna Di Meno. Grazie Conte per aver suggerito, indetto, esatto. Per aver suggerito al Premier questo bellissimo colore. Io vorrò proporre a Guglielmo di fare zona rossa tramutata in zona fucsia, solo per questa cosa qua di giovedì. Per il 25. Come la vedi? Per il 25 è bello, e però chiedere... il 25 è mercoledì. Sì, no, noi il giorno dopo, perché purtroppo mercoledì non riusciamo ad andare in onda, però lo faremo di giovedì. Allora sì, beh, ovviamente sì. E saremo in zona fucsia. Mi sembra il minimo, sì sì. Che domanda pensi possiamo fare alle persone sul fucsia? Quante cose hai fucsia a casa? No. Cosa ti ricorda il fucsia? Non lo so, non lo so. Poi effettivamente... in tutto dovremmo chiamare la gente comunque. Chi fa gli eventi li chiamiamo. Il 25 novembre, ragazzi, fatevi avanti, noi vi aspettiamo. Mercoledì. Se volete presentare la vostra il vostro evento, la vostra offerta all'internet, ovviamente, ovviamente verrà valutata, cioè non vale tutto, però stavo pensando la stessa cosa nella puntata zero, guarda. Diventiamo il calderone rispetto delle a che idee. Non vale tutto. Ah no. Sì, rispetto a che non vale anche. Tutto, mi arrivano a volte degli eventi che dico ok, grazie, ciao. E in to-do list come la gestiamo questa cosa, Chiara? Allora, un'agenda ha un numero finito di righe. Giusto, giusto. Cioè, oltre a una certa non si può andare. Ognuno segna ciò che ritiene. E comunque ricordiamo che un sacco di queste cose sono anche presenti in... come dire, in su canali YouTube, su... pagine Facebook, verissimo, quindi in realtà verissimo. È come dire, è un'agenda, ma c'è un portfolio molto vasto da cui attingere comunque a prescindere. Quello sempre, quello sempre. Ricordiamo anche che alla fine di ogni puntata facciamo un bel post, una bella sfilza di eventi che potete andare a ricliccare e rimandare in giro. E arriviamo... c'è anche la data. E c'è anche la data. C'è esatto. Anche la data. 23 novembre. 23, 23 novembre, novembre. Ricordiamoci. Sì, sì. E c'è una citazione bellissima che diciamo a fine puntata, però. Non so perché mi ha colpito paura. Così tanto. La conosci la citazione, quella dell'alluvione? Ah, okay. Ah, ok. Il 25 novembre è la giornata mondiale contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere. Giornata di mobilitazione di Nuna Di Meno. Praticamente Nuna Di Meno ha deciso di fare il colpo grosso. E quindi in questo caso avete sentito le parole del Premier, le ha comunicate. Siamo ufficialmente quasi alle porte di questa zona fucsia. E ne vedrete un sacco in giro. Ovviamente ci sono due momenti, che sono mercoledì 25 e sabato 28, in cui si spezza la situazione. Per questo riguarda mercoledì 25. Ricordiamo che oggi è il 23 di novembre. Radio ZM. Per tutta la giornata, volantinaggio di prossimità nei quartieri. Potete stampare i materiali che trovate sulle pagine Facebook di Non Una Di Meno e distribuirli in tutto il vostro quartiere. Se vuoi puoi condividere anche le immagini e puoi mandarle a nonunadimenomilano@gmail.com. Per i social c'è l'hashtag 25nmilano. Puoi taggarci anche nelle storie Instagram, che anche noi abbiamo iniziato a fare Instagram, non grazie a Cigo, ma vabbè. Cigo sta agonizzando nel nulla. No, Cigo sta facendo questo studio per l'isola per presentarlo a una puntata. il tag che dovete usare su Instagram è nonunadimeno.milano. E poi alle 15.30 si terrà questa conferenza stampa. Io le loro conferenze stampa le adoro, mi è sempre piaciuto un sacco. Sì, e sì. Per tutte le informazioni potete scrivere all'indirizzo email, che è nunadimenomilano@gmail.com. Bene, ho finito di fare l'Amadeus, adesso parliamo di cose interessanti. Perché non che non lo fosse questo. Non che non lo fosse, esatto. No, parliamo di con toni interessanti. Ecco, con toni interessanti. Toni interessanti, ricordiamo un italo-americano di... di Little Italy giusto sì, il baffo c'è, il baffo c'è, esatto. Quindi è stato fatto un grande lavoro, è un percorso che va avanti ormai da quando ci hanno chiuso, perché si è ragionato molto il contesto effettivamente delle violenze di genere. In questo momento si è assottigliato a quello che è la sfera privata, a quello che è la casa, il tema della casa, del fatto di rimanere in casa. Secondo me è partito tutto da quello, questo grande periodo che comunque sia si porta avanti, e questo evento secondo me è molto importante. Sia la conferenza stampa, che è quello di cui vi parleremo sabato, che è anche molto interessante. Adesso aumenta l'hype. Esatto, esatto. Lo stiamo facendo, lo scoprirete soltanto. Esatto, dopo la pubblicità. Dopo la pubblicità. Non è vero, sono, perché sono dei pezzoni della Madonna. Non ce l'abbiamo la pubblicità. No, noi sponsorizziamo Radio ZM, fa quello che vuole. Madonna. Ridillo. Radio ZM fa quello che vuole e non ha bisogno di pubblicità. Non abbiamo bisogno di pubblicità. È giusto così. Slittiamo sempre di mercoledì. Perché nessuno credo che vorrebbe la pubblicità. No, potremmo un farla programma noi. Mio e tuo. Potremmo farla noi la pubblicità. Sì, perfetto. Giusto quello, c'è manca. C'è il jingle, perfetto, di Norbi, che per 30 secondi ti parla di una cosa. Bello. Che puoi mandare. Bello però. Bello. Poi dopo un po' c'è il jingle di Kiko che ti spiega un'altra cosa. Bello. Voglio iscrivermi. Fra una settimana nascerà un programma, si chiamerà Jingle. Poi, perfetto, sempre mercoledì, andiamo avanti per non perderci mai, libera di muoverci, libera di restare, libera dalla violenza. È il titolo di un evento che arriva direttamente da non una di meno Piacenza e Mediterranea. Leggo il testo. A fronte della retorica sull'integrazione che pone un binarismo gerarchico tra noi e loro, costruiamo alleanze fra forme diverse di oppressione, come abbiamo fatto per lo sciopero globale dell'8 marzo. Occorre innanzitutto riconoscere che le donne migranti, con le loro azioni di resistenza e di rifiuto della violenza razzista, mettono in questione l'ordine patriarcale ogni giorno, alle frontiere esterne e interne. E questo, ricordiamo, appunto, è un evento, secondo me, della Madonna, organizzato da non una di meno Piacenza e Mediterranea. Sì, intervengono, no, un medico, un'operatrice sociale e una ginecologa, attivista di Mediterranea Saving Humans. Sì, no, sembra molto interessante. Sembra molto interessante. Sembra molto interessante. Non tra l'altro, l'orario, devo dire, nel... Andiamo a pescare l'orario intanto. No, che... guarda, forse c'è, se devi scendere con la freccina. Io ho il tuo computer. Scendi con la freccina, guarda. È esattamente, vedi? Alle 20. Alle 20 sulla pagina di Non Una di Meno Piacenza. Infatti lo pinziamo nel post. Lo metteremo nel post anche questo. E, sembra un evento interessante. Tra l'altro, all'interno del titolo, in realtà la lettera finale di Liber è la Shoeba, quella, cosa del genere, sì, che è la nuova lettera, il nuovo fonema diciamo di riferimento, che non sappiamo però come pronunciare precisamente. Io l'ho impostato sulla tastiera del mio computer, è un casino enorme, ho dovuto seguire un tutorial. Ma va fatto anche questo. E niente, in realtà ricordiamo a questo punto che oltretutto il 25, ma anche questo è per alzare l'hype perché ne parleremo dopo meglio, è la giornata scelta per diciamo come giornata di lotta da un paio di diverse sigle sindacali e da varie realtà di movimento diciamo per quanto riguarda i lavoratori della sanità, quindi ne parleremo poi più avanti, ma insomma è bene ricordare anche questo. A questo punto, a questo punto andrei avanti con è tutto tuo. Con l'agenda. Il giovedì è un bel giorno. Anche perché il giovedì, come al solito, vede un bel numero di eventi, anche se non in ordine diciamo cronologico. Noi partiamo da quello più importante, perché ospitato qui da noi, da Collettivo Zame, da Radio ZM, nel senso che settimana scorsa per l'appunto abbiamo avuto una presentazione di un libro, diciamo, da parte di scritto da un compagno palestinese, e anche quello lo trovate sui profili delle nostre realtà. Ma questa settimana è la settimana di paure. Ne abbiamo già presentati qui. Q-Code Magazine è un'esperienza meravigliosa di editoria sotto l'egida di Prosper Editore, ed è una rivista semestrale di geopoetica. Quindi come funziona? Che ogni sei mesi la redazione seleziona una parola e tenta di declinarla in tutte le sue sfaccettature. A cosa è dedicato il terzo numero? Al tema delle paure. quindi quello che si scrive è che appunto i linguaggi utilizzati sono molteplici e così i direttori, sfogliando l'anteprima del giornale, passeranno da reportage ad articoli e inchieste, da interviste a graphic novel, da fotografie e studi di fact-checking alle rubriche pensate per dare un'informazione di qualità. Avremo Angelo Miotto, niente po' di meno che è il direttore di Qcode Magazine. L'appuntamento è per le ore 19, il giovedì, ricordiamo, 26 novembre, per l'appunto sulle pagine di Collettivo ZAM e su quella di Radio ZM trovate la diretta che vi invitiamo ovviamente a seguire. A questo punto torniamo indietro nel tempo perché sempre giovedì, ma nel pomeriggio prima, quindi fate a tempo volendo a sentire entrambe le cose, c'è un'interessante conferenza dal titolo Il sessismo nella lingua italiana. Sono riflessioni e consigli per adoperare meglio le parole nella vita quotidiana così come sui mezzi di comunicazione. Ad intervenire sono ospiti dall'Università di Birmingham, dall'Università di Brighton, un'avvocata e un docente dell'Università di Roma 3. Quindi hai capito, diciamo, le premesse sono buone. Ottime. Trovate questo incontro alle 16.30 sulla pagina Facebook di Biblioteca Assemblea Legislativa, di cui io non avevo nozione fino a questo momento, ma diciamo l'evento sembra molto interessante. E altrettanto segnaliamo la riunione di presentazione di un nuovo progetto che si chiama Statale Impatto Zero, una realtà nata all'interno dell'università statale che diciamo invita chiunque volesse diciamo capire di più di clima, emergenze, inquinamento e cercare di mettere in pratica le proprie idee su ambiente e salvaguardia climatica, è invitato a farlo all'interno di questo nuovo progetto e nel caso vogliate darvi un'occhiata lo trovate giovedì dalle 18.30 sulla pagina di Statale Impatto Zero. Attenzione. Con questo io direi di chiudere, fare un'altra dedica. Esatto, facciamo di fare un'altra dedica. Ciao giovedì, abbiamo fatto mercoledì e giovedì, oggi è il 23 novembre, ricordiamo il 23 novembre. Sotto c'è venuto a trovarci Nicolas Jarre intanto con una canzone bellissima che sta passando in sottofondo, scusate. Amici miei, amici miei di Novara, non infatti, ti preoccupare, okay, amici perfetto, miei di Novara. Dicevo, non conosco, ma mi fido. Amici miei di Novara. Va bene, ci sta. Quindi sponsorizziamo Novara. Omaggiamo. Chi vuoi sponsorizzare? Chi vuoi omaggiare? Abbiamo lanciato una di meno. Mi sembra giusto. E a questo punto ricordiamo, visto che le date sono importanti, 25 di novembre, giornata mondiale contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusas. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Abajo, menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Vamos mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, cabrón, ni una menos. Vabbè, sto pezzo è pazzesco comunque. Pezzaccio. Pezzone, incredibile. Effettivamente è anche abbastanza galvanizzante, devo dire la verità. Sì, infatti mi ricordo un po' i Chemical Brothers, per dirti. Che sono usciti con un album che si chiamava Galvanize, se ti ricordi. Ritorniamo sulle note di Nicolas Jarre, il novarese Nicolas Jarre. Ah, che è ancora sotto? Vabbè, sta? Stava finendo Mimouillère, che è molto carina, ve la consiglio. Mimouillère, andate ad ascoltarla, bellissimo. Sì, credo che si dica Mujer comunque. Quello lì, ma va bene. Niente, a questo punto sentiamo. Bravo. Non male. Bravo ragazzi. Sponsorizziamo buona musica comunque su Radio ZTM. Sì, quello è una storia assurda, un giorno faremo un siparietto. 23 novembre 19:22, siamo on air da 41 minuti esatti. Perfetto, direi perfetto. Che ce la stiamo polleggiando benissimo e andiamo a venerdì, o sbaglio? Allora, sì, in realtà andiamo a questo punto, devo dire che nello sbirciare dei grandi archivi dell'internet, sì. Ho scoperto che per questo fine settimana c'erano gran numero di due giorni, convegni, conferenze, tutte questo weekend, per qualche inspiegabile motivo, ma comunque in realtà sono alcune offerte molto interessanti e sono fondamentalmente diverse due giorni. Noi cercheremo di dare un minimo di, diciamo, di sguardo al calendario. Ovviamente siete sempre, come dire, invitati ad andare a sbirciare a partire dai link che troverete all'interno del post, che comparirà post, a breve, certo. Sulla pagina di Radio ZM. E il primo, diciamo, mini convegno, mini conferenza che vogliamo presentare si chiama Dal carcere alle città e mira, organizzato dall'associazione Antigone, sezione Veneto, quindi anche qui torniamo all'associazione Antigone, ma ne vale effettivamente la pena. L'evento Dal carcere alla città mira ad indagare il complesso rapporto che intercorre fra l'istituzione penitenziaria e il territorio nel quale essa è immersa, focalizzandosi su quattro aree tematiche di particolare rilevanza, quale il diritto alla salute, l'accesso al lavoro, la questione abitativa e le connessioni possibili tra carcere e città. L'evento è appunto organizzato da Associazione Antigone Veneto, prevede fondamentalmente tre tavoli, tre momenti anzi, il venerdì dalle 15 alle 18 con un tavolo su carcere e salute, un tavolo dalle 10 alle 13 di sabato 28 con appunto un panel su fine pena, lavoro e questione abitativa e un momento di tavola rotonda assembleare finale dalle 14 alle 17:30 sempre di sabato 28 novembre. Beh, programmino, eh? Non male. A questo punto, in realtà organizzato da Amnesty International, c'è un altro convegno internazionale piuttosto interessante che si chiama Sulla rotta balcanica. Le giornate sono sempre quelle di venerdì e di sabato, gli argomenti di approfondimento sono parecchi in realtà, fondamentalmente diciamo tutto gira intorno alla rotta balcanica nel contesto europeo della gestione e delle politiche in maniera di asilo e di migrazione e poi a cascata in realtà una serie di interventi successivi su riammissioni di richiedenti asilo, catena di riammissioni illegali, violenze e torture perpetrate contro i migranti in Croazia a seguire invece sabato ci sarà un focus un po' più sulle normative europee fondamentalmente. Lo troviamo sulla pagina di Rivolti ai Balcani dalle 15:30 alle 17:30 fondamentalmente di sabato, quindi da venerdì a sabato, sulla rotta balcanica, altro convegno piuttosto interessante. Cosa ne pensi tu? Penso che veramente stiamo incredibilmente sfiorando tutti quelli della settimana scorsa e più, perché Sì, effettivamente è un bel elenchino, è veramente un bel allora, elenco. Allora, possiamo fare però un appello a voi organizzatori su internet. Anche due. Anche due. Allora, il primo è mandateci i vostri eventi, ma il secondo è cercate di mettere gli eventi un filino prima, così li si trovano tipo anche il lunedì o martedì per la settimana dopo e non solo la domenica. Esatto, perché la ricerca è un po' quella. La butto lì. Esatto, proprio. Esatto, o ci vorrebbe una sorta o se di... no mandateceli prima, così noi li sappiamo in totale... Li spoileriamo tutti. No, ce li teniamo per noi, e così voi avete la vostra privacy, insomma... parlateci nell'orecchio, è un po' questo che cerca anche Tutulisti, faccio questo sfondo nero un po' tetro della copertina bellissima che abbiamo sfornato, che è un po' quello, un po' quell'evento che forse ci sarà questa cosa qua. Pensa quando comunicheremo che dopodomani andiamo a prendere il Palazzo del Potere. Succederà anche quello. No, beh, cioè... comunque adesso scherzi a parte che questo succederà, ma prima o poi. Ma ovviamente speriamo presto di dare, diciamo, un particolare risalto alle iniziative in presenza piuttosto, certo, che quelle online. Noi siamo contenti di sponsorizzare anche quelle online, perché sono altre cose che fanno bene diciamo, ai cittadini, ai militanti, ai... A chi ha voglia di farsi due domande, ma voglio dire, speriamo prima o poi di iniziare a dire: allora, lunedì c'è corteo, martedì c'è presidio, mercoledì corteo pazzo. Ma infatti, in realtà, il venerdì mattina corteo, sabato mattina e pomeriggio corteo. La primissima 12. Idea di un to-do list fu fatta da Gigi le primissime settimane della radio, in cui si voleva trovare un momento prima dell'assemblea del lunedì per raccontare quello che ci sarebbe stato da lì a 7 giorni, o più importante, un evento magari da calendario da iniziare a ricordare. Quindi questo succederà. Esatto. Sta già succedendo. Intanto andiamo avanti e poi mandiamo una traccia, o mandiamo una traccia e poi andiamo avanti? Ma... 23 novembre 19:29. Vogliamo mandare una traccia? Vogliamo mandare una traccia perché a me interessava. Costanza ci ha gentilmente suggerito, secondo lei, la canzone migliore di Miley Cyrus. Perché? Perché Miley Cyrus oggi, proprio oggi, che ricordiamo essere il 23 di novembre del 2020, compie 28 anni. Ok, perfetto. Una 92. È una 92, compie 28 anni e quindi a questo punto... Io non ho mai ascoltato Miley Cyrus, quindi non voglio partire prevenuto. Io non mi so fido di niente. Costanza. Anch'io mi fido di Costanza, infatti adesso partirà, o forse no, Miley Cyrus e ci faremo un'idea, l'ascolteremo. Questa è Party in the USA, tutta per voi. With a dream, my cardigan. Welcome to the land of fame, excess. Am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am for the first time. Look to my right and I see the Hollywood sign. This is all so crazy. Everybody seems so famous. My tummy's turning and I'm feeling kinda homesick. Too much pressure and I'm nervous. That's when the taxi man turned on the radio. Club in my taxi cab, everybody's looking at me now. Like, who's that chick that's rocking kicks? She gotta be from out of town. So hard with my girls on around me. It's definitely not a Nashville party. Cause all I see is the letters. I guess I never got the memo. My tummy's turning and I'm feeling kinda homesick. Too much pressure and I'm nervous. That's when the DJ drowned my favorite tune. And the Britney. Like Scusate, scusate, non ci siamo persi, ma in realtà ci sono dei disturbi radiofonici che sono la presenza sì. di due persone che, nonostante abbiamo acceso i microfoni, sono rimaste qua, quindi rimarranno quindi qua. Quindi adesso possono ancora parlare. Un po', aspettate, chiudo la porta. Costanza se ne va dopo aver messo Miley Cyrus e averci umiliato così, scoprendo che in realtà è figlia d'arte. È figlia d'arte, Anna Montana, è figlia del signor Cyrus, che è uno dei... Bravo, Billy dei Cyrus. Vedi che Cigo è arrivato a portare... È tornato così. Cigo in radio. È tornato Cigo. Ciao! È tornato Cigo, lui non sa perché non ci stava ascoltando, ma non sa che già prima l'abbiamo tirato in mezzo e abbiamo già collato la solita puntata che prima o poi farà un po' come quelle cose che se continui a dirle chissà magari succedono. Tanto ovviamente è passato di qua solo perché aveva bisogno di un favore, che era mettergli il rullino alla macchina. Vabbè. Dai, lo sto offendendo. Questo è quanto ci vuole bene Cigo. Vabbè, insomma, dobbiamo anche capire che dovremmo andare avanti perché si è fatta una certa. Si è fatta una certa. Non è vero, infatti... solo perché è entrato Cigo. Allora sì, guarda, Cigo, purtroppo siamo chiusi. Tu hai capito che programma stiamo facendo? Ma no, vedi, no, che non sai niente. No. Ha risposto ginnastica per stare attesa e parla pure senza il microfono. Cioè, pazzesco. Chiara, interrogalo. Allora, Cigo, non sei sul pezzo. Non sei sul pezzo, no. Assolutamente. Dovresti fare anche il nostro social media manager. Costanza mi sta schiavizzando per il Costanza fa gran bene e fa assolutamente il suo dovere e tu dovresti fare il doppio di quello che ti viene richiesto. Invece, okay. E invece no, siamo sempre qua su delle gioco. Porzioni. Okay. Certo, vabbè, se no quello che mi viene chiesto è un tot. Niente, allora praticamente Cigo, abbiamo detto che noi stiamo ancora aspettando la tua puntata di qualsiasi cosa sia sull'isola dei non morti, tipo Avril Lavigne. Ah sì, e giusto, Jimi giusto Hendrix. Quindi non si sa, insomma, prima o poi diciamo Cigo che, ci degnerà. No, non avrò mai sua... tanto tempo libero, però già che sono qua magari vedo di preparare qualcosa in questi giorni. Vedi, questa è anche to-do list. To-do list è quella cosa che ti ricorda i tuoi impegni proprio. Esatto. Ti viene a prendere a casa, un giorno chiameremo la gente e dice ma tu non dovevi fare quella cosa lì, scusa, te lo ricordo io. Esatto, noi siamo la smemo. È andata così. Siamo, esatto. Fondamentalmente, tu devi sapere sempre una cosa, 23 novembre. E ogni volta che faremo una puntata diremo il giorno in questione, perché è un programma... Non diremo sempre 23 novembre. Non diremo sempre 23 novembre. Non è una buona idea. È uno di quelli che i giovani chiamano daily, capito? È un programma daily. Cioè solo lunedì, però lunedì è daily, nel senso che ti dice le cose di oggi per la settimana. Sì, un programma di eventi. I giovani dicono daily. Vabbè. I giovani dicono okay, daily. I video bene. Daily sono i video giornalieri. Sì. Madonna mia, sei effettivamente molto giovane, guarda. Pica. Assolutamente sì. Vabbè, va bene, ok. È bastato un attimo di Cigo per sprofondare nell'abisso del niente. Nell'abisso, guarda. Nel nulla cosmico. Vabbè, ok. Zona... Bravo. Cigo porta zona rossa ovunque lui vada, vero, e soprattutto parla lontano dal microfono, noi lasciando dobbiamo ammetterlo, ma è così, fa parte della nostra essenza. È tornata Costanza? No. È arrivato Norberto. Norberto ci vuol dire delle cose? Sì, sei entrato, vorrà parlare. Dici qualcosa per favore. Sì, volevo informare i 4 milioni di ascoltatori di Radio ZM delle nuove tariffe di Cigo. Dunque, per uno spogliarello, diciamo parziale, mettiamola così, parziale, 2,50€ alla fine è Cigo, non è che... Per uno spogliarello integrale, 4€. Per uno spogliarello integrale con servizio deluxe, 10€. Per qualsiasi cosa telefonare a Pietro Carrera, detto Dupe, e ci sentiamo al più presto. Ciao a tutti. Vedi, noi dicevamo che non c'è pubblicità. C'è pubblicità. Vendiamo. Tra l'altro avevamo detto Cigo. Che sarebbe stato Norbi. Cioè, quanto cazzo siamo avanguardia. Dico abbiamo già io. Registrato il jingle. Il jingle Cigo verrà mandato ripetutamente ogni 20 minuti per una settimana. Grazie Perfetto. Norberto per questo contributo. E to-do list va avanti. Ora Chiara ti fa vedere cosa succede in to-do list. Allora, in to-do list stavamo per l'appunto dicendo che nel corso della settimana a venire ci sono diverse due giorni che vale la pena di seguire. Ne abbiamo già citate due, si chiamavano Dal carcere alla città e Sulla rotta balcanica. E il terzo che vi andiamo a proporre è in realtà un appuntamento ormai consuetudinario, nel senso che l'Università Migrante è giunto ormai alla sua quinta edizione ed è una rassegna di lezioni e laboratorie aperti agli studenti universitari, operatori del settore, ma anche a tutte le persone della zona. Della zona, ricordiamo, essere organizzato tendenzialmente dal Circolo Arciblob di Arcore, città nota alle cronache per dei natali prestigiosi, mi sento di dire. E in questo caso la partecipazione è gratuita, le tematiche sono affrontate il 28 di novembre, quindi sabato: migrazioni forzate, attori, reti e pratiche comunicative e oltre confini e lungo la rotta balcanica, e un secondo tavolo chiamato Porto Salvo, migranti, turisti e altri incontri mancati del Mediterraneo. La domenica 29, quindi il secondo giorno di questa edizione online dell'Università Migrante 2020, ha un tavolo dal titolo Il razzismo nei mass media. Bellissimo, secondo me. Esattamente, credo anch'io sia molto interessante. Tutti gli eventi saranno realizzati online sulla piattaforma Zoom. È necessario iscriversi compilando il form sul sito di universitamigrante.com in maniera tale da ricevere via mail il link della partecipazione. Ovviamente l'evento è gratuito, quindi non prevede nessun tipo di costo. Se volete andare a guardare un po' più nello specifico quello che succederà, l'evento è Università Migrante 2020 edizione online. A questo punto la parte un po' più geek. Io sono a lavoro domenica, volevo proprio farla sta cosa, vedi che fastidio. Ci sarà la registrazione. Questa frase la dirò almeno 5 volte ogni puntata, questa è già la prima in questa, andiamo avanti. L'ho detta altre 3 volte nella puntata 0 che non sentirete. Esatto. La sentirete alla 500esima puntata. È entrato Giacomino. Questo momento geek un po' nerd, un po' mio. È tuo. Figurati se non ma è poi tuo. Andiamo anche a ruota libera e sfondiamo la parete, entriamo negli eventi politici direttamente. Esatto. Così anche Giacomino, che è qua, può sentirci, anche se dovrebbe essere collegato. E andiamo al bellissimo, l'edizione del 2020 del Cartoomix. Cioè io non ci sono mai andato, lo sapevo, sai. Guarda, lo sai che non ci sono mai andato. Avrei trovato, tra l'altro ci sono una serie di parole che questa ho trovato è la Digital Edition. Esattamente, ci sono una serie di parole che ho trovato nel testo di questa cosa che non so neanche che cosa vogliano dire, ma io sono sicura che il buon Piccarasi, che è un po' più cartoon, un po' più anime di me. Ragazzi, non datemi questa palla perché potrebbe finire malissimo, veramente. Io non dico che mi vergogno di me, perché non è così, meritato anche addosso, però non, per voi, lo dico per voi. Io leggo intanto. Allora, Milan Games Week, il più importante evento dedicato al mondo dei videogiochi, degli export, del digital entertainment, della geek culture, lo storico appuntamento con il mondo del fumetto, dell'editoria, dell'intrattenimento e della cultura pop. Si uniscono e danno appuntamento al pubblico dal 26 al 29. Quindi superiamo la domenica. Quindi, domenica è il 29. No, esatto. Andiamo, domenica è il 28. Sì, esatto. Quindi arriva fino a lunedì questo. No, domenica è il 29. Domenica è il 29, ok, ciao. Per un'edizione completamente digitale. Nasce MGVX, una vera e propria extensive experience, in partnership con la piattaforma live streaming Twitch. Quindi sarà una cosa spaziale, spaziosa. Anzi, non ho capito neanche una parola. Ma no, praticamente sarà una super live molto interattivo, dove le connessioni, quelle base, non so ci arrivano. Okay. Quindi una cosa comunque, cioè bisogna comunque che porre, non potete una scroccare la, sì, esatto, no, il wifi dal tizio, no, di due piani sopra. Non penso. Come fate voi? Lo vedresti male comunque. Una diretta bella impegnativa, comunque molto interattiva. Quasi sicuramente Twitch di per sé è una piattaforma interattiva che sta prendendo piede poi ultimamente tantissimo. Ricordiamo però il io profilo volevo, Twitch io in to-do list voglio metterci come esempio dell'emozione. Quindi non vi parlerò a livello tecnico di niente, ma vi dirò come mi sento. Nel senso che non è facile, in un contesto in cui tu non bazzichi in quei giri, se hai una passione di questo genere sei un po' frustrato, perché non ne puoi parlare con nessuno o con nessuna. Non per cattiveria, ma perché non mi hai fotto un cazzo a nessuno, una figa a nessuna. E l'unico modo che hai per farlo è andare a questi raduni. Quindi di per sé è una cosa positiva, secondo me, perché ti dà la possibilità di incontrare gente che ha voglia di sentirti parlare di queste cose e che è presa bene addirittura. Tra l'altro io non l'ho segnato, ma in realtà c'è anche tutta una serie di indicazioni su delle piattaforme dove fare cosplay. Sì, no, ma online, cioè, diciamo all'interno del Cartoomix. Tieni conto che stiamo parlando di un mondo che già prima della pandemia era diviso 50 nella realtà, 50 nell'internet. Bilanciava la sua economia su i forum, su tutto il discorso di incontrarsi solo in un mondo digitale, e poi c'era la realtà. Adesso che l'internet sta galoppando, loro hanno tutti gli strumenti idonei per, certo, navigare nell'internet come meglio credono e farsi tutte le loro piattaforme room varie, quindi gestiranno questo evento sicuramente con tutti i crismi del caso, però sono anche belli flippati. Ma infatti, se secondo me, già se uno riesce ad entrare, se uno riesce ad entrare sulla piattaforma Twitch, ricordiamo, sarà la parola di oggi, Twitch, e niente, se uno già ci riesce a entrare perché capisce che cos'è, allora già è uno skillato. Effettivamente, spezzo una lancia, poi vado avanti, mi taccio per sempre. Questo è un momento molto acceso, vuoi per un discorso ovviamente di emergenza sanitaria che ci costringe a casa, o costringe alcuni e alcune a casa, bene, tranquilli, in cui ci si compra un sacco di videogiochi e si naviga, e questo nuovo ritorno verso il videogame in un contesto in cui sta uscendo la PlayStation 5, quindi proprio un evento epocale che è stato 3 giorni fa, 4 giorni fa, quindi ci sarà sicuramente molto materiale da attingere in questo momento a livello di nuove uscite. Ci salutano, ci abbandonano. Ciao Cigo. Entriamo a gamba tesa, eventi politici. Entriamo a gamba tesa perché effettivamente la giornata, come dicevamo, del 25 è una giornata di lotta per più motivi, ma anche la giornata del 28 sarà un momento, diciamo, di portare i nostri corpi in piazza e come dire, e omaggiare questa giornata di lotta. E nello specifico mi piace molto perché entrambe queste cose per l'appunto verranno fatte in presenza, quindi esatto, questa volta la rubrica degli eventi politici coincide con gli eventi in presenza, e questa cosa mi riempie di gioia. E nello specifico stiamo parlando per l'appunto della giornata del 25, che abbiamo già ricordato in passato, ma rifacciamo un recap. Il 25, giornata contro la violenza di genere, vede una conferenza stampa da parte di Non Una di Meno, e vede nello specifico anche la possibilità di volantinare, posare in foto di solidarietà e diffondere in generale i materiali che si trovano sulla pagina di Non Una di Meno. Allo stesso modo, il 25 sempre è giornata di lotta per i lavoratori della sanità, e in particolare in occasione dello sciopero nazionale della sanità, seguito alla dichiarazione dello stato di agitazione e alla lettera in cui 50 tra medici d'urgenza e rianimatori degli ospedali di San Carlo e San Paolo di Milano, in una lettera pubblicata sul Fatto Quotidiano, hanno denunciato la disastrosa situazione negli ospedali dove lavorano, con reparti al collasso. La situazione evidentemente è piuttosto grave. Ai lavoratori della sanità serve evidentemente un supporto, diciamo, nelle proprie rivendicazioni, direi che lo è sia per uno spirito solidale, ma anche in generale per il bene di tutte e di tutti. E quindi, come dire, se ci saranno dei... probabilmente ci sarà appunto una presenza lanciata sicuramente dal CARC, ma probabilmente a cui seguiranno altre adesioni davanti ai cancelli dell'ospedale San Paolo, quindi nel caso tenetevi aggiornati e provate a seguire un po' quei canali di informazione. A questo punto io finirei con, per l'appunto, la giornata del 28, quindi di sabato prossimo, 28 novembre, perché oggi è il 23 novembre, per chi ricordiamo, non Radio lo ZM, sapesse, Radio ZM, e quindi dalle ore 15 in piazza Città di Lombardia, che è sotto la regione se non erro, c'è una performance pubblica e collettiva organizzata dalle compagne di Non Una di Meno. Sarà una manifestazione quindi in presenza. Ci sarà da portare effettivamente i propri corpi sotto la regione, ovviamente tutto ciò nel rispetto delle misure di sicurezza, quindi le compagne ci tengono a sottolineare che va portata assolutamente la mascherina, mantenute le distanze di sicurezza e invitano ad avere cura di chi ci circonda, quindi direi che non possiamo che cogliere questo appello e a questo punto invitarvi a passare così le vostre giornate di lotta. Giusto? È giustissimo, così sia. Sei però d'accordo? Sono d'accordissimo, ma io fremo perché c'è una canzone che voglio mettere da un botto. Quindi prima abbiamo finito, giusto, gli eventi? Allora, io direi che abbiamo finito. Però io voglio mettere questa qua e poi salutare. Va bene. Così poi riusciamo a mettere anche, tra l'altro, in diretta, Fred Buscaglione, cos'è che volevi mettere? Volevo mettere un pezzissimo che si chiama Noi Duri. Noi Duri, giusto. Che non è molto bello, che sì, è molto molto bello e oltretutto il brano è tratto da un film che adesso mi sfugge, però forse c'era scritto lì alla tua fonte ed è geniale, anche il pezzo di film da dove arriva è veramente totale. Il film si chiama proprio Noi Duri, leggo perché non lo conoscevo, di Camillo Mastro 5 con Totò, Paolo Panelli, Scilla Gabel, Fred Buscaglione, Luigi Pavese, ancora Mario Castellani, Bice Valori, Elio Pandolfi, Linda Sini, Giuseppe Porelli, Giulio Marchetti e Tony Ucci, Lins Show, Ignazio Dolce, Gianni Solaro Comico, Bianco Nero, durata 100 minuti ed è del 60. Vedi? Questo lo proiettiamo a CineZam, volendo sì. Quasi sicuramente lo proietteremo, ma in realtà partiamo da quest'altra canzone, perché da un'altra cosa. Il 29, quindi domenica, sarà il compleanno di Danny Dirty, che probabilmente a non tanti, quantomeno della mia generazione, è un nome che suona, ma che è noto per essere uno dei quattro membri dei Mamas and Papas. Anche questo gruppo, ai noi, per un po' di gente è sconosciuto, ma non dovrebbe, perché in realtà ha composto delle canzoni super celebri, tra cui quella che andiamo ad ascoltare adesso. Quindi facciamo il compleanno a questo simpatico omone. Io adoro questa canzone, è troppo bella. Meno male che i microfoni li spegniamo fuori onda, perché se mi sentivate cantare, non so. Mamma bella mia. Però, è bellissima. Bellissima, bellissima, bellissima. Grazie loro Chiara. Stilosissimi. Grazie Chiara, perché è lei che ci mette lì tutto l'impegno a cercare ste date, perché io non lo faccio invece. Ebbene. E mi trovo ste canzoni in diretta così che mi sciolgono il cuore. Bene, abbiamo finito di ammorbarvi. Basta. E niente, io direi di salutare, di rimandare alla prossima settimana, nel senso che saremo ancora qua a disturbarvi e a proporvi il meglio di ciò che troviamo, quantomeno. Se non lo troviamo è anche responsabilità vostra. Soprattutto. E ringraziamo Greta. Ringraziamo Greta per il supporto mega prezioso e direi a questo punto di salutarci con l'ultima canzone, e ricordiamo che c'è un post in cui trovate tutto ciò che abbiamo detto sulla pagina di Radio ZM sotto il nome di To-Do List, che stiamo proprio per mandare adesso. Questo post è pubblico da ora, 23 novembre, 19:54 si chiude To-Do List 2, ma anzi 1, perché la prima era la 0. Esattamente. Quindi è così, insomma, oggi è 23 così. Novembre, esatto. Compie gli anni Fred Buscaglione, nato il 23 novembre del 1921, ci andiamo ad ascoltare noi due e ci salutiamo così. Buona settimana. Noi due, coi volti scuri, scuri, proiettiamo ombre lunghe sui muri. Noi duri, le donne, amiamo strane donne, con assurde fasciatissime gonne. Che donne, con l'abito rigato, la pistola nel gilet, ad ogni partita rischiamo la vita, chi vuole un po' di rogna su due piedi ce l'avrà. Ecco, noi duri, che in fondo siamo dei puri, ne facciamo un po' di tutti i colori, noi duri. Noi duri non stiamo sempre fuori, scivolando lungo vicoli scuri, torniamo da mamma, che a nanna ci metterà. Noi duri.